permette a Lufthansa di sostanzialmente eliminare nell'arco di qualche anno totalmente, da un lato, il caviale da storione selvaggio, dall'altro lato qualsiasi claim relativo al caviale, che prima invece erano abbastanza numerosi a bordo. Poi il mercato si allarga sino a portare l'azienda ad una produzione importante. Dopo Lufthansa, nel frattempo il caviale da storione selvaggio, diciamo, piano piano riduce le proprie quantità. Noi siamo fra i primi sul mercato insieme ai francesi a vendere caviale da storione allevato, e quindi a questo punto, vista anche l'esperienza più che positiva di Lufthansa, riusciamo ad acquisire anche altri clienti, quindi altre compagnie aeree in principale modo, e soprattutto nei vari paesi riusciamo a andare su diversi distributori, importatori, in maniera tale da poter vendere tutta la quantità che oggi si aggira sulle 20-25 tonnellate all'anno. Ma nel nostro paese il consumo del caviale non è ancora diffuso. Se ne consumano circa 3 tonnellate all'anno, a differenza di altri paesi europei, come ad esempio la Francia, dove il consumo è entrato da tempo nella cultura enogastronomica. Secondo me il costo non è un problema. Non so, io vedo nei ristoranti che si mangiano le ostriche, si mangiano altri prodotti di lusso. Secondo me c'è una mancanza di abitudine da parte dei consumatori, dei ristoratori ad avere il materiale. C'è anche la necessità da parte nostra di fare i prodotti adatti. Ad esempio, abbiamo creato un paio d'anni fa la lattina da 10 grammi di caviale. Questo permette, da un lato, chi vuole fare un assaggio di avere una spesa, diciamo, abbastanza ridotta, ecco, pur prendendo bene di lusso, dall'altro lato anche di fare magari una verticale di caviale assaggiando diverse tipologie e avendo una prova di degustazione, diciamo, molto completa. Buona parte del caviale prodotto in Lombardia viene esportato, anche in un paese insospettabile. Ma noi lo esportiamo in tantissimi paesi. Mi piace citare la Russia, perché esportare caviale in Russia è un po' come vendere i ghiaccioli agli eschimesi, no? Quindi non ne hanno abbastanza sicuramente, però sicuramente lo apprezzano, tanto è vero che noi nel 2013 abbiamo fatto addirittura un evento qua a Milano dal console, che ha parlato benissimo del nostro caviale, ecco, meglio di quanto sarei capace a farlo io. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.